pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. È vero che la riforma prevede un'eccezione rispetto alle nuove regole di pensionamento per le donne lavoratrici del settore privato nate nel 1952? Sì. La riforma ha stabilito per le lavoratrici dipendenti del settore privato nate nel 1952 una speciale eccezione per evitare penalizzazioni eccessive rispetto all'aumento dell'età pensionabile. In particolare, coloro che compiono 60 anni nel 2012 e hanno maturato almeno 20 anni di contributi sempre entro quest'anno potranno andare in pensione di vecchiaia nel 2016 invece di attendere il 2018 come accadrebbe in base alle nuove regole.